No, non basta, anche perché è una legge che affronta il tema del consumo di suolo, ma è soprattutto una legge urbanistica, di governo del territorio, ed è una legge che andrebbe modificata in alcuni punti, perché gli effetti di questa legge in questi 4 anni, complice la pandemia, non sono poi stati molto, come dire, molto interessanti, molto innovativi come invece si proponeva, perché sono state concesse deroghe e altre cose. Noi però siamo partiti da una legge di principio, cioè una legge che afferma un principio, che non fa mai male queste cose, come si dice, ripetuta iuvant, e in questo caso ci sembrava utile partire dal perché è importante tutelare, non consumare suolo, fermare questo folle consumo di suolo. E quindi abbiamo fatto una legge nuova, è una legge che, oltre a affermare alcuni principi, apporta anche qualche modifica a questa legge 24 del 2017. Quali sono i contenuti allora della vostra proposta? Intanto, sicuramente l'affermazione di un principio che peraltro c'è anche nella legge regionale, che è stop al consumo di suolo. Cioè, noi siamo per un consumo di suolo che si ferma subito, oggi, non al 2050 come dice l'Unione Europea e come ha recepito la regione Emilia-Romagna. Crediamo che questo consumo di suolo possa essere fermato come dice la legge, ma fermato davvero, fermato da subito, e lasciando la proroga, una deroga soltanto solo per opere pubbliche, e abbiamo precisato solo per opere pubbliche e non di interesse pubblico previsti nei piani. Questo è un problema tutto italiano, le opere pubbliche stanno nelle leggi obiettivo, stanno sui tasebao, nelle trasmissioni televisive, stanno nella mente di qualcuno, non stanno, raramente stanno in un piano. Quindi la prima cosa che diciamo è: possono essere consentito consumo di suolo solo per opere pubbliche e non di interesse pubblico. Perché non di interesse pubblico? Perché con l'interesse pubblico abbiamo visto che passano i poli della logistica. L'interesse pubblico non è normativamente definito, anche se la legge 24 richiama la definizione normativa. Non c'è una definizione normativa di interesse pubblico, è legato, vuol dire, all'interesse, alla sensibilità, all'etica del periodo storico. Oggi l'etica è tale che con l'interesse pubblico passano i poli della logistica. Diciamo che i proventi derivanti dai titoli abilitativi edilisti, cioè gli oneri di urbanizzazione, devono essere esclusivamente destinati, senza vincoli temporali, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, cioè devono essere utilizzati per fare quello per cui sono raccolti e previsti dalla legge, e non finire nei bilanci delle pubbliche amministrazioni per pagarci di tutto e di più. Portiamo alcune modifiche, ribadiamo il principio che la città deve rigenerarsi e quindi tutto lo spazio che serve va ritrovato su se stessa, all'interno di se stessa, nelle zone dismesse. Pensiamo al patrimonio enorme che abbiamo di aree dismesse in questa città, per esempio, visto che sono di Bologna. Diciamo basta proroghe, riaffermiamo la perentorietà dei 4 anni di entrata in vigore dei piani, dei nuovi piani urbanistici, senza ulteriori proroghe come invece vengono concesse, ultimi in ordine di tempo la proroga concessa dalla legge di bilancio. Eliminiamo la possibilità di ampliare attività produttive collocate in prossimità, perché le altre cose che si possono allargare per legge è si possono ampliare le attività produttive. Però con il concetto di prossimità, in questi anni abbiamo visto nuove sedi, penso a Ozzano e dintorni, collocate a 5 km dalla sede originaria dell'impresa. E poi escludiamo la possibilità di ricorrere a un procedimento unico per i casi in cui siano ancora operanti i vecchi strumenti urbanistici, cioè sostanzialmente quello che è accaduto in questi anni, che si è lasciato svuotare la stalla dai buoi e dagli animali che stavano dentro, concedendo di tutto e di più. Ma soprattutto vogliamo affermare un principio, che la città è nostra e che è necessario occuparsi anche di urbanistica, e questa è una cosa a cui io tengo moltissimo, perché di solito l'urbanistica dice: vabbè, ma l'urbanistica è una cosa da tecnici. No, noi non possiamo lasciare, se vogliamo avere una capacità di futuro, dobbiamo prenderci in mano la responsabilità come cittadini attivi di anche materie tecniche come quella dell'urbanistica, perché comunque ci condiziona la vita, è un po' come l'economia, è un po' come la finanza, e quindi è bene che, così come facciamo con i gruppi d'acquisto solidale, così come facciamo con altre esperienze come Camilla a Bologna, dobbiamo prenderci in mano anche la città e la tecnica e la disciplina che gestisce la città, se no non ce la potremo fare.